Grazie, a questo punto passo la parola a Giancarlo Santoni. So che Giancarlo tu potresti parlare per i prossimi 24 giorni, dati gli anni di esperienza al Summit, dato il numero incredibile di migranti che hai potuto osservare il tuo servizio, ti chiedo invece il dono della sintesi, perché siamo un po' in ritardo sulla linea di marcia, quindi ti chiedo di un'enunciazione puntuale, ma sintetica. A te la parola, Giancarlo. Bene, grazie, sarò sintetico sicuramente, mi metto non più di 10 minuti. Ok. Grazie, ringrazio tutti coloro che mi hanno preceduto, che seguiranno e che ci stanno ascoltando. In particolare voglio ringraziare il collega onorevole Pietro Bartolo, che non so se si ricorda, ci siamo conosciuti durante la sua presentazione del libro Le stelle di Lampedusa all'auditorium. Ciao Pietro. Di Roma, che ha seguito la presentazione del libro Storia di Brigitte, Io sono con te, Storia di Brigitte di Melania Mazzucco, che racconta la storia di una rifugiata seguita dal punto di vista psicosanitario dal Samifo e socio-giuridico dal Centro Astalli, il servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia. Che ci faccio qui? Cerco di essere rapido. Sono qui perché da oltre 20 anni mi occupo di salute mentale, sono medico, facevo lo psichiatra, lo faccio tuttora, adesso mi occupo più di tutti gli aspetti organizzativi legati all'attività quotidiana. Dirigo l'onore di dirigere il Samifo, che è una struttura sanitaria a valenza regionale della Regione Lazio, della ASL Roma 1, per l'assistenza ai migranti forzati, nonché punto di riferimento anche per tutti gli enti che operano a tutela della loro salute, perché si avvale di un modello, scusi, chiudi, scusami, Alessandra, si avvale di un modello organizzativo che attraverso percorsi assistenziali integrati riesce a soddisfare bisogni di salute complessi che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale. È un modello particolare perché si avvale della collaborazione fra l'ente pubblico, la ASL Roma 1, l'Associazione Centro Astalli, Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, quindi privato sociale, vi è la medicina di medicina, i medici di medicina generale all'interno del Samifo e l'ente locale Roma Capitale ci sostiene anche con il servizio di mediazione linguistico-culturale. Facciamo tante cose, come diceva Pietro, abbiamo in questi anni preso in carica oltre 20.000 rifugiati, 300 l'anno sono vittime di tortura che certifichiamo con certificati medico-legali e sono oltre 2.000 le visite di psichiatria e di psicologia che facciamo. Ma il Samifo non è solo un centro che fornisce, diciamo, assistenza sanitaria competente a una popolazione particolare, ma è anche un luogo generatore di una nuova conoscenza, perché adegua pratiche medico-sanitarie alle esigenze di una popolazione particolare, cioè i migranti forzati. Ma perché diciamo migranti forzati? C'è questa, diciamo, che per noi i migranti forzati sono persone che purtroppo condividono un drammatico passato traumatico, minaccioso per l'integrità e la continuità psichica delle persone, che include ovviamente l'esposizione a violenza correlata con le guerre, aggressioni sessuali, torture, incarcerazioni, persecuzioni, eccetera. Per quanto riguarda il progetto in essere, mi è stato chiesto di scrivere, diciamo, una piccola sintesi sulle linee guida ministeriali emanate appunto dal Ministero nel 2017. Devo dire che il processo di elaborazione delle linee guida ministeriali ha richiesto molti anni di confronto fra professioni e professionisti impegnati in tutta Italia. Sono d'accordo con la sottosegretaria che è necessario rivedere alcuni aspetti, ma non possiamo stare dietro i cambi delle leggi, perché appunto prima i decreti Salvino, adesso i decreti immigrazione. No, dobbiamo avere un'idea sanitaria che vada oltre l'aspetto giuridico che può cambiare. Quindi è giusto e condivido di mettere mano a una revisione delle linee guida, ma credo che prima meritino l'applicazione presso tutti i territori nazionali. Sono purtroppo solo due le regioni che le hanno recepite, la Regione Lazio nel 2018 e la Regione Toscana recentemente. Diciamo che le linee guida non entrano negli aspetti di salute mentale, già è stato detto, dopo sarà detto immagino da altri colleghi, quindi io voglio dire che l'obiettivo delle linee guida era e rimane quello di giungere a una progettazione a regime dei servizi per garantire alle vittime di tortura e alle vittime di violenza estrema adeguata assistenza specialistica. In questo ambito faccio un passo indietro e poi continuo. Ringrazio il Ministero dell'Interno e la Commissione Europea, quindi la dottoressa Maria Assunta Rosa e il dottor Patrick Doel, perché io diciamo sono responsabile di due progetti a valere, appunto, uno nominato prima, il progetto iCare per la Regione Lazio, e l'altro Fari 2 a valere su fondi ordinari, per i quali c'è un'attenzione estremamente particolare alla salute mentale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e, per quanto riguarda i care, anche di casi speciali. Diciamo che le linee guida sono nate dopo anni di riflessione e di partecipazione a progetti a valere su fondi per chissà di cosa, fondi europei per i rifugiati prima dei FAMI, con una rete molto importante nazionale di oltre 30 enti nato col progetto Lontani dalla Violenza. L'opportunità è arrivata nel 2013, quando l'Italia si è trovata a dover recepire una direttiva europea, la 95 del 2013, che riservava un'attenzione molto specifica al tema della riabilitazione psicofisica delle vittime di tortura o di gravi traumi, disponendo che gli Stati membri devono, diciamo, fare una serie di cose. Abbiamo organizzato una conferenza a Parma nel novembre del 2013, Italia terra d'asilo, e in cui abbiamo invitato all'epoca la ministra per l'integrazione Cécile Kyenge, c'erano rappresentanti del Ministero dell'Interno, il rappresentante dell'UNHCR per il Sud Europa e tante altre persone. Abbiamo finalmente, nel febbraio 2014, il Ministero ha istituito un tavolo tecnico e abbiamo finalmente prodotto, dopo due anni di confronto, le linee. Non so quanto tempo è passato, Raffaele, ma hai un paio di minuti, scusami, ti chiedo veramente, perché abbiamo ancora due interventi più le conclusioni, vorrei lasciare almeno 10 minuti per accogliere qualche domanda, non dico proprio un dibattito, a prendere qualche domanda, quindi allora chiudo con una poesia, riprendo le parole della sottosegretaria che non vedo più, ma è una poesia di Italo Calvino. La leggo perché non me la ricordo a memoria. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due sono i modi per non soffrire. Il primo riesce facile a molti. Accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Credo che quelli che sono qui oggi appartengono alla seconda ipotesi. Grazie. Con Giancarlo c'è una consuetudine ormai da anni anche su questi temi e volevo appunto sottolineare i punti anche di diversità del lavoro che abbiamo fatto, ne abbiamo già parlato in altri contesti rispetto alle linee guida del 2017, appunto, che erano più legati ai soggetti esplicitamente in qualche modo soggetti a violenza e trauma. È vero che in senso lato tutti coloro che entrano in immigrazioni forzate potrebbero essere intesi in quanto inclusi in questa categoria, però il fatto di distinguere potrebbe creare una, forse un elemento di disallineamento negli operatori. Quindi il nostro lavoro è quello di dire comunque indipendentemente dai livelli di specializzazione necessari e indispensabili, soprattutto per coloro che hanno subito questo genere di trauma e di violenze, c'è una necessità di raccordo tra i centri di accoglienza e i relativi servizi di salute mentale che ci pare indispensabile per garantire anche, come si diceva prima, ai centri di accoglienza la possibilità di fare il loro lavoro meglio, con più serenità, sentendosi sostenuti dai servizi territoriali. Su questo, del resto, do la parola a Giulio Corinetti, visto che come capo dipartimento della ASL di Salerno ci ha visto riflettere anche insieme su questi temi nel nominato progetto Penning, coordinato dall'area della praticità della medesima ASL. A Giulio ti ringrazio di essere qui, anche per il contributo che trovo molto bello che ha dato nel volume, su, diciamo, il senso della... Forse voi tutti sapete che l'Italia è famosa per la legge Basaglio, almeno quello che doveva essere lo sforzo di ripensare la salute mentale, e mi pare che l'articolo di Giulio dia una bella lettura di quello che dovrebbe essere, diciamo, magari troppo sulla carta, ma insomma dovrebbe essere l'approccio alla salute mentale secondo lo spirito che anima questo paese, cioè la legge Basaglio. A te, Giulio. Ti ringrazio, grazie davvero Raffaele, grazie a tutti i presenti, inutile che mi dilunghi nei ringraziamenti, qualche cosa va sottolineata comunque, a una dimensione nuova che è nel lessico oggi anche del nostro ministero, che è l'attenzione agli aspetti di salute della popolazione. Giulio, avvicina il microfono per cortesia. Che è l'attenzione agli aspetti di salute della popolazione, con particolare riguardo ai modelli di integrazione, ai modelli di riconoscimento anche di tante popolazioni speciali e delle problematiche dell'immigrazione. Io ringrazio Raffaele Bracalenti per le opportunità negli ultimi 2 anni, tra leggerezza, risate e anche, come dire, piacevolezza di confronto, abbiamo potuto immaginare delle traiettorie che servissero ad approfondire il piano di ricerca, come lui ha detto, attualmente temporaneamente sospeso, ma che ci impegniamo tutti a portare a conclusione, ma perché è stata un'occasione di spunto che poi fondamentalmente è anche forse la questione centrale di cui vorrei parlare. Noi con la riforma psichiatrica, ora già da più di 40 anni, abbiamo introdotto, come dire, una rottura di paradigma e un grande cambiamento nell'approccio alla follia, ai problemi della salute mentale. E diciamo, è stato proprio l'impegno a superare i problemi di tolleranza e del folle, del diverso, introducendo quelli del riconoscimento, che sono temi oggi fortemente centrali per contrastare queste spinte nazionaliste di non riconoscimento di tutti. Noi siamo un popolo unico del mondo e dobbiamo saperlo affrontare. E poi l'altro tema che era legato alla riforma, il governo della povertà, la povertà di una popolazione, cioè degli ultimi, che un tempo erano solo i pazienti psichiatrici, e oggi tendiamo a relegare in questo elemento di marginalità le popolazioni forzate migranti. E quindi in un certo senso io sento una nuova spinta all'innovazione in un'epoca dove a più di 40 anni di innovazione se ne sentiva fortemente la necessità nel nostro settore, quindi nella rete dei nostri servizi. Ma perché? Se, come il Ministero sta facendo con grande forza, ci chiede di rispettare quelle che sono le priorità del Piano d'Azione Nazionale Salute Mentale, dove mette delle priorità per bisogni emergenti, al tempo stesso sottolinea quanto sia importante stare attenti ad innovare con servizi e con interventi adeguati a raggiungere, mettendo al centro la persona, i problemi di disagio, di sofferenza, di malessere psichico nel rapporto tra fattori di protezione e fattori di rischio ambientale. Beh, noi lo stiamo scoprendo proprio, come dire, entrando nel merito, nella rete delle comunità e dei servizi di accoglienza dei migranti, quanto essi diventano un'occasione di stimolo e di innovazione rispetto alla necessità di riflettere quanto e quanta dipendenza c'è dai fattori ambientali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, come tutti quanti voi sapete, sottolinea fortemente di programmare, progettare e quindi poi gestire i nostri servizi sul piano della individuazione dei determinanti sociali di malattia. Quindi la popolazione dei migranti non è riconosciuta così come un peso, ma come un'occasione di approfondimento, di ricerca e sicuramente di innovazione dei servizi. Noi non possiamo più limitare la struttura e l'organizzazione della rete dei servizi di un dipartimento di salute mentale individuando la sola territorialità. Abbiamo una serie di bisogni che richiedono interdipendenze tra servizi e quella della popolazione migrante è una delle occasioni per studiare ovviamente come raggiungere questo aspetto. Non si tratta tra l'altro di gestire soltanto la problematica del trauma premigratorio e delle problematiche del disturbo post-traumatico da stress. Si tratta proprio di approfondire questa tematica del rapporto tra emergenza di disagio sociale e disagio personale e le differenziazioni che contesti ambientali e contesti di riconoscimento favoriscono o peggiorano. Quindi in questo senso dobbiamo dire l'occasione per fare una trasformazione culturale. Raffaele, cercherò di essere breve, ovviamente limitando al massimo gli approfondimenti che volevo in questo senso. Noi, e lo dico da psichiatra, direttore di un dipartimento di salute mentale, abbiamo una necessità assoluta di una crescita culturale. E questa è una delle occasioni. Se perdiamo questa occasione, rimaniamo invecchiati in uno schema che andava bene per il superamento degli ospedali psichiatrici, che è stata veramente una rivoluzione tra le tante state che sono state condotte nel secolo scorso, ma se non vogliamo fare che di quest'epoca si faccia un'epoca di regressione, facciamo in modo che le migrazioni siano veramente un'occasione di sollecitazione. Tra l'altro, una delle necessità che, svolgendo questa ricerca insieme a Raffaele Bragalenti, abbiamo sentito è quello di rispettare una criticità tipica di un territorio come quella della provincia di Salerno, che ha delle aree di grande conurbazione e delle aree marginali periferiche, e abbiamo pianificato e programmato insieme a lui l'opportunità che nasce proprio al di fuori dei soliti servizi dei CSM, delle strutture residenziali, di ambulatori di prossimità. Qual è la cultura di prossimità che ci permette di concepire un'assistenza territoriale orientata al bisogno e orientata alla vicinanza narrativa con persone che hanno anche difficoltà di esprimere il proprio bisogno di salute e il proprio bisogno di equilibrio? Va ridefinita la strategia euristica dell'organizzazione, e in questo credo, peraltro, mi fermo qui, Raffaele, perché sento proprio la necessità solo della conclusione, che nell'arco temporale della ricerca che stiamo conducendo insieme riusciremo anche a dare dei dati e delle opportunità ulteriori per dare sostanza e significato a questo ulteriore modello organizzativo. E mi fermo qui ringraziandoti e ringraziando tutto, Raffaele. Grazie Giulio, devo dire per me è stata una grande scoperta il lavoro con la ASL di Salerno, le sue componenti dell'area della fragilità e dipartimento di salute mentale, e devo dire questa ringrazio loro veramente entrambi, perché secondo me si stanno mettendo in campo delle cose molto belle. E a microfoni ancora spenti raccontavo un caso che ci ha reso orgogliosi, che è il caso di Festus, si può dire, è un caso di un uomo, insomma, che era diventato una sorta di minaccia perché vagava più o meno nudo in preda alle sue sofferenze per la città di Salerno, e che dopo 7-8 mesi, ma di uno sforzo congiunto, bello devo dire, ha riacquistato piena cittadinanza, è stato avviato a un percorso di formazione, e insomma devo dire è il segno di un lavoro fatto insieme di cui sono particolarmente contento. Quindi grazie Giulio, grazie a Giovanna Storti che ci ascolta e a Giovanna Doria che era dirigente dell'area fragilità che adesso è in pensione, quindi grazie.